Avete una temperatura di 35 gradi e per ogni grado si liberano 2 unità odorose. Ogni foglia assorbe 5 unità. Quante foglie servono per eliminare tutto il vostro odore?